音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是消防车，守卫着这座城市。 出发。 很多人说我有红色的铠甲，坚定的信念和无坚不摧的体魄。可是，每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心…… 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏1998年在北京太庙演出的普契尼的歌剧《图兰朵》的实况录音，由托祖拉、拉林、富利托利等演唱，祖宾梅塔指挥意大利佛罗伦萨节日歌剧院演出，张艺谋导演。 Chiuso il cuore a tua corona, ma cerca di persegue

senza lumicino. Ora nero un cammino, son più chiare delle nimi di Toledo. Ferro, bronzo, muro, roccia, bastina, d'acqua, capoccia, son migliori delle nimi di Toledo. Dunque fa saluta a tutti, barca i monti, dalle flutti, dalla larga, dagli nimi di Toledo. non piangere più, se in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso. Yeah!

mai si sogna e il palazzo già formicola l'anello di servi di sudar udite il gran tamburo del tempio verde già scritto le infinite già vale di pechino udite trombe altro che pace a inizio la cerimonia abbiamo al poter cinesimo splizio E il sangue quanto scettro io stringo, gronda di sangue. Basta sangue, giovine va, figlio del cielo, io chiedo d'affrontare la prova. Fa ch'io possa morir senza portare il peso della tua giovine vita. Figlio del cielo, io chiedo d'affrontare la prova. Non volere, che senti ancora d'orrore, la reggia il mondo. Figlio del cielo, io chiedo d'affrontare la prova. Straniero è pro di morte, e sia, si compia il tuo destino. Oh, my goodness. si sia fretta se sognerò con questa mamma ho una voce che credo tu ascolti ed è appunto il brivido non perderti straniero Thank you. di tu che vuoi, di tu che vuoi, è l'amore che cerchi tu che vuoi, di tu che vuoi. Yeah! quel nome? Quel nome? La posservo, si ne perdono, obbedire non può. Perché gridi? Lasciatela! Penso mistero, non più sei mia. Tu che tremi se ti sfioro, tu che sbianchi se ti bacio, vuoi perdermi se vuoi, il mio nome la vita insieme ti farà. Io sofferò, figlia di Timore. Sei il tuo nome, sei il tuo nome. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。